Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento in questo nostro venerdì con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e saluto cordialmente il presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi parliamo di marketing selvaggio, perché ahimè lo sappiamo, siamo tempestati di gente che vuole sempre venderci qualcosa. Sì Francesco, parliamo di un fenomeno che non conosce crisi e che in questo periodo del 2017, in questi diciamo primi 10 mesi, ha avuto un incremento del 16% rispetto all'anno precedente di quelle che sono un po' le pratiche in generale che abbiamo trattato all'Adico relativamente a questi problemi di bollette e fatture, di bollette e di telefonate indesiderate che gli utenti ormai conoscono da molto tempo. Chiaramente il dato ci ha indotto a fare una riflessione, perché vediamo che alla fine anche la vigilia di quella che sarà una liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, che oggi ancora sostanzialmente non c'è, certamente dovrà farci riflettere, perché i tempi che verranno avanti, se non ci sarà una seria regolamentazione, non saranno certamente tempi sereni. Infatti l'abbiamo visto un po' anche sulla telefonia, no? Quando si è liberalizzato un po' il mercato c'erano offerte più interessanti, alcune servivano a portare via i clienti da un gestore all'altro. Succederà così con offerte stravaganti e anche offerte particolari da studiare molto bene per quanto riguarda l'energia? Ma diciamo che Francesco, l'Adico, la denuncia che vuole fare è quello che è un po' non solo accade, ma anche entrare nel merito dei casi, perché non è possibile oggi nel 2017 ricevere conguagli da 50.000 euro o avere venditori che vanno a suonare per i campanelli delle case e vanno a far sottoscrivere contratti a persone che hanno 80-90 anni, oppure anche addirittura risultano casi di persone che sono decesse e questi hanno avuto il coraggio di presentare un contratto firmato. Quindi capiamo che è un settore che, così come oggi è impostato, al di là di quello che poi anche ci troveremo ad avere offerte che non riusciremo o faticheremo a capire, e dovremo anche orientarci ad individuare quella che sarà più attinente alle nostre esigenze, ma secondo noi deve essere regolamentato sulle modalità che questi gestori, sulle modalità operative che questi gestori oggi attuano e che la maggior parte delle volte tendono sempre a fregare il consumatore. Mm-hmm. Ecco, per esempio leggevo tra le note che scrivete nel vostro sito di una signora che è stata, come dire, costretta a firmare, altrimenti le avevano detto le staccheremo la luce. Sì, accadono proprio casi di questo genere, ma poi ricordiamoci che tempo fa avevamo trattato per esempio quelli che entravano proponendo falsi rivelatori del gas e con la scusa dell'installazione ti facevano sottoscrivere contratti. Poi c'è il problema delle domiciliazioni, ci sono i problemi dei conguagli anche retroattivi addirittura di 5 anni dove arrivano appunto bollette sproporzionate. Poi ci sono conteggi a volte che non si riescono a capire, come quello di 50.000 euro, come si sia potuto ad arrivare, diciamo che magari chi può avere un debito in banca che magari si trova addebitato in conto corrente 50.000 euro e dopo magari invece, come anche in questo caso, abbiamo scoperto che non erano dovuti. Quindi un mercato che secondo noi oggi è selvaggio, e dei dati che penso che sia opportuno anche citare su quelli che sono un po' le attività legali che l'Adico ha trattato in questo periodo del 2016, che riguarda proprio il 32% conguagli esagerati, il 23% marketing selvaggio, quindi venditori che si accaniscono alle ore più disparate o verso sera e telefonano raccontando anche un sacco di fandonie o bugie con lo scopo di strappare contratti, o abbiamo anche legittime sospensioni delle forniture, 15% oppure anche contratti fasulli, quasi 10%, quindi capiamo che siamo in presenza di dati a due cifre, insomma, che devono per forza dare una spinta verso una regolamentazione. Speriamo che il governo si metta in moto proprio per regolarizzare al meglio questa cosa, questo mercato, che in virtù del fatto che verrà liberalizzato all'inizio del 2019, ovviamente sta portando a tutta una serie di movimenti e di segnalazioni di forzature proprio per andare a cambiare il gestore. Voi dell'Adico siete attenti, ricordo che se qualcuno vuole ulteriori informazioni può contattarvi, c'è il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a Carlo Garofolini, a tra qualche giorno. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.